sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Siamo a Ferrara, nell'anno 1930. Io, primogenito di 8 anni in una famiglia di 5 figli, sono in terza elementare e naturalmente sono balilla. Con tutta la classe ci si sposta fra aule, palestra, piazza per le adunate, sempre marciando in quadrati, sempre segnando il passo. Sono Antonio, nato 92 anni fa a Bologna, da ben 70 anni a Firenze, dove mi sono laureato, sposato, divenuto padre, avuto 2 nipoti e finalmente un bisnipote. È sempre un piacere cominciare con questa nuova sigla. Ti dà sempre la sensazione, anche se sono solo 3 giorni che ce l'abbiamo, di essere molto rilassato su una spiaggia e con un cocktail in mano e di raccontare ogni giorno una storia diversa. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia. Il programma è sempre Voi siete qui, ogni giorno alle 16 in diretta, dal lunedì al venerdì. E questa è la sigla di Mauro Ottolini, che ringraziamo ancora tantissimo. Quelle che sentite sottofondo, l'ho già detto in questi giorni, ma sono delle conchiglie, per questo che dicevo che sembra di stare su una spiaggia. Proprio sulla spiaggia oggi vorrei raccontarvi questa storia, che è la storia di Antonio, che è una storia molto bella, come moltissime delle storie che arrivano da persone che hanno una certa età, che quindi hanno vissuto una vita lunga, corposa e quindi piena di cose. In questo racconto in particolar modo parla di quel periodo in cui, appunto, quando eri un bambino eri di fatto un balilla, non avevi modo di decidere che cosa diventare, se un giocatore di calcio o un tennista, eri sostanzialmente un balilla e ti puppavi con la roba lì. Ed è per questo che oggi in qualche modo parliamo di fanatismo, partendo da questa storia. 349-238-6666 oppure Voi siete qui, Radio 24 è il profilo Facebook, Voi siete qui R24 è il profilo Twitter. Io ho avuto un periodo, poi fortunatamente è passato, in cui ero diventavo fanatico in un momento, cioè guardavo Occhi di Gatto per 3, ve lo ricordate Occhi di Gatto, per 3 puntate di film. Miriam non se lo ricorda Occhi di Gatto, ma quindi è andato avanti per anni, mica solo per la nostra generazione, e ero fanatico del mondo del ladrocinio, sostanzialmente pensavo che sarei voluto diventare un ladro, poi guardavo un film sui poliziotti ed ero fanatico, volevo diventare un poliziotto, spero sia una cosa abbastanza comune, poi mi è passata. Ma a proposito di fanatismo vero e proprio, quello che vivi al punto da diventare, da uscire un po' di senno, Claudio scrive su Facebook: io sono fanatico da sempre della corsa con le biciclette d'epoca. Ecco, bravi, perché poi di solito si è fanatici, quanto più stretta è la cosa tanto più si è fanatici. Biciclette d'epoca, quindi quelle che pesano tipo 12 kg. All'ultima gara ho quasi spinto uno fuori dalla strada per entrare interno in una curva. Dopo pochi minuti ho capito che ero stato un imbecille. Benissimo Claudio, l'hai fatto tutto tu. Federico: sono fanatico assoluto di Bruce Springsteen, e qui c'è un lungo elenco. Sono andato una volta a un concerto di Bruce Springsteen, anche in questa radio ci sono dei fanatici di Bruce Springsteen, non da poco ma credo dappertutto. Abbiamo fatto anche delle storie, no? Un racconto di un signore di 50 anni che impazzivo. Ho visto 35 suoi concerti in Italia e in giro per il mondo. Quando ho portato per la prima volta mia figlia con me, ho visto nei suoi occhi lo stupore per come suo padre fosse stato diverso dal solito. E questa è l'immagine che vogliamo tenere con noi. Un uomo con una famiglia, un uomo che sta bene, che probabilmente ha un lavoro e che ha una sua dignità agli occhi della figlia, che va al concerto di Springsteen e si disfa davanti agli occhi della figlia, che capisce. Sai quando ti dicono: quando è che hai capito che tuo padre non era un supereroe? Ecco, al concerto di Bruce Springsteen. 349-238-6666. Dimentichiamo Bruce Springsteen, andiamo indietro di tanti tanti anni. Sono gli inizi del secolo, è il ventennio, è quel ventennio lì e siamo a Ferrara. Siamo a Ferrara, l'anno è il 1930. Io, primogenito di 8 anni, in una famiglia di 5 figli, sono in terza elementare e naturalmente sono balilla. Con tutta la classe ci si sposta fra aule, palestra, piazza per le adunate, sempre marciando in quadrati, sempre segnando il passo. Ogni occasione è pronta per l'ordine saluto al duce, a cui risponde la classe con a noi. L'insegnamento scolastico è sempre condito dal senso di vittoria della guerra passata e della preparazione ad affrontare da futuri combattenti le mete che il duce sta preparando per la patria. Essere balilla nel 30 era una condizione normale, generalizzata. Per di più, quell'uniformità era gonfiata dal senso di patriottismo eccitato in tutte le persone, in tutti i campi. Quindi non ci se ne rendeva neanche conto. Dunque, avete davanti questo ragazzino che, per l'atmosfera che lo attorna e lo sospinge, è animato da un inesprimibile desiderio di fare. Fare che cosa, però? Non lo sa neppure lui. Insomma, qualcosa però lo deve fare. E l'occasione arriva sotto forma di un grande calendario di propaganda di un prodotto agricolo. Il bello è nella parte superiore, dice. C'è stampata una imponente concentrazione di spade, gladi, aste da guerrieri, moschetti, vanghe, fasci di grano, elmi greci, armature romane e il tutto sullo sfondo di un grande sole nascente fra i raggi del quale appaiono raggianti le parole, le lettere della parola apoteosi. La testata rutilante di quel calendario fece in me l'effetto di una goccia di acido solforico caduta in una miscela chimica. In pochi attimi, come ad uno scenografo dell'arena, mi balzò in mente la luminosa idea di concretizzare un aspetto trionfale e mi apprestai a metterla in atto. Per un paio di giorni mi organizzai segretamente per confezionare alcune bandiere tricolori di carta con la loro piccola asta. Poi aspettai il momento opportuno. Dopo il pranzo, quando il babbo era in viaggio, la mamma si concedeva un quarto d'ora di pennichella. Appoggiava il capo sulle braccia incrociate sulla tavola, pregandoci di lasciarla un poco tranquilla. Quella era l'occasione che aspettavo. Mi fece aiutare da due dei fratelli di 6 e 4 anni a radunare tutte le sedie disponibili, anche quelle di altre stanze, e ad ammucchiarle in un angolo della stanza, le une sulle altre, in una montagna vertiginosa e pericolante. Poi salimmo tutti lassù, aiutando anche l'Anna, sui 3 anni, e portandoci perfino il marmocchietto Gigi, di neppure un anno. Poi, ad un mio cenno, ci mettemmo a cantare, anzi a gridare, sulle note di un inno e sventolando le 4 bandierine, dicendo «Apoteosi, apoteosi». Eravamo 5 figli, eravamo nati nel corso di appena 8 anni, quindi abbastanza vicini gli uni agli altri. E la nostra mamma, poveretta, era una casalinga, veniva dalla campagna, una brava, buona donna, insomma. E mio padre invece era commerciante, era praticamente sempre fuori con la macchina in automobile perché commerciava macchine agricole in tutta la provincia di Ferrara e quindi praticamente lo vedevamo la sera soltanto. I miei fratelli non avevano bene capito la divina ispirazione del mio genio, ma la mia autorità li aveva contagiati. Cesare trionfatore davanti alle piramidi? Napoleone la sera della battaglia di Marengo? Bazzecole davanti al senso di gloria trionfale che mi pervase in quei momenti. A quell'urlio improvviso la mamma si desta, ci guarda esterrefatta, non so che cosa debba avere pensato in quell'attimo. Poi, vedendo il pupattolo Gigi che rischia di stramazzare a terra, balza in piedi e a suon di scapaccioni mi obbliga a rientrare nella piatta normalità. Cesare era finito a pugnalate all'ingresso in Campidoglio. Napoleone era svanito su uno scoglio in mezzo al mare. Anche io dovevo scendere dalla mia scala gloriosa, ma me la cavai con soltanto alcune busse materne. Eri l'orgoglio di casa, alto come un monumento, un quarto d'ora per poterti caricare, poi 3 minuti in gran silenzio ad ascoltare. Dischi di Enrico Caruso, della Patti ti lo mando, con quella voce un po' stridula che a loro piaceva tanto. Poi Petrolini che cantava i Salamin, anche a richiesta delle nonne e dei bambini. Poi venne l'operetta di Ranzato e di Leao, già cominciavi un po' da scricchiolare. E il grande Pasquariello, o zappatore, singhiozzò e triste la tua molla si spezzò. Sei soffitta, senti suonare Stan Kenton come un inno di sconfitta, ma nel vederti ancora oggi ognun dimentica l'età e forse ti ringrazierà. Eh bello e sorridente Antonio nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, sempre alla solita pagina radio24.it. È una giornata di sole, immagino estiva, alle sue spalle un sacco di verdi e lui è seduto su una sedia di plastica di quelle da giardino d'esterno e tiene in braccio un bambino piccolissimo che immagino sia il suo pronipote. Pronto Antonio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Io sto benone, grazie al cielo, me la cavo bene, malgrado la mia età e tutto, insomma, sto bene. Grazie per averci mandato la tua storia, Antonio, che è bellissima. Mi ricordi esattamente, tu hai 92 anni, giusto? Sì, esatto. Ne hai 92, sei del 22, sei del 22. Del 22, sono nato qualche mese prima della marcia su Roma, figurati. I tuoi riferimenti sono un po' quelli lì. Che cosa ti ricordi della guerra, visto che insomma ci hai raccontato così bene i tuoi ricordi di bambino? Invece della guerra mondiale, che cosa ti ricordi? Come l'hai vissuta tu, Antonio? Posso ricordare tanto due cose che l'hanno preceduta e che mi hanno marcato un po' perché sono state abbastanza interessanti. Una è avvenuta nel 1936, sì. 1936, quando Mussolini venne a Bologna e fece un discorso pubblico, naturalmente in piazza, e per evitare che la folla fosse subito sotto questo grande podio dove lui era, dove doveva parlare, era stato messo una specie di grande cuscino di avanguardisti, sai, gli avanguardisti erano, certo, era una sorta di un po' invecchiati, sì, sì, i balilla invecchiati, certo. Io ero in mezzo a loro e stranamente mi sono venuto a trovare proprio sotto, davanti a Mussolini, a pochi passi. Sì. Sicché era quel famoso discorso degli 8 milioni di baionette, ti ricordi? Certo. È una cosa che naturalmente, un po' per l'eccitazione del momento, la fantasia di noi ragazzi che urlavamo, insomma, naturalmente è una cosa che mi ha marcato. Certo. Quindi tu, e scusami Antonio, Antonio, ma tu quindi eri un giovane fascista, fervente, attivo? No, per carità. No, cosa vuoi? Intendiamoci bene. A quel tempo si era naturalmente balilla o avanguardisti perché era la scuola che era, si entrava tutti nelle organizzazioni inconsapevolmente, si può dire, praticamente in sì, certo sì, insomma, modo, l'insegnamento andava in quella direzione e quindi tutti quanti sì, sotto questa grande ala. Scriversi o non iscriversi, era naturale che si fosse così. Anzi, ti dirò un'altra cosa, sempre come avanguardista, perché proprio è una cosa abbastanza buffa. Certo. Due anni dopo, quando nel 1938 Hitler venne a Roma, e il suo treno si dovette fermare alla stazione di Bologna per un cambio del treno, della locomotiva. Dovevano cambiare la locomotiva e anche in quel caso avevano messo fra il binario primo e il binario terzo, dove il suo treno si doveva fermare, sì, un grosso, diciamo pure cuscino, diciamo, nel senso, sì, che era una protezione, diciamo, dalla folla, tutto costituito di centinaia di avanguardisti, fra cui ero anch'io, che dovevamo essergli vicino, insomma, diciamo così. E io mi sono trovato in questo mio gruppo di avanguardisti, insomma, sì? Mi venne a trovare proprio esattamente davanti al finestrino al quale Hitler si avvicinò, si affacciò due o tre volte sorridendo e salutando. Quindi Antonio, tu ti sei trovato di fronte a due pezzi di una anche contestabile pezzo di storia di questo paese, insomma, tra Mussolini e insomma mica solo di questo paese e Hitler. Non anche praticamente dimenticare per la stranezza anche del fatto. Beh, certo. Alla quella stazione era quello poi dove qualche anno dopo Fioravanti mise quella famosa bomba, la famosa bomba di Roma, proprio in quel punto lì. Ma è avvenuto tutto. Antonio, invece scusami, io vorrei sapere qualcos'altro, perché tu hai 92 anni, insomma hai avuto un grosso pezzo di vita. Come hai proseguito poi la tua vita? Cosa hai fatto nella vita? Che lavoro hai fatto? Mi sono un po' impiegato e poi ho messo su un ufficio per conto mio, di ufficio di esportazione, di collegamento con ditte straniere che venivano a comprare in Italia. Quindi avevo un buying office, dato che ero laureato in lingue straniere, già da molti anni lavoravo soltanto praticamente per l'estero. Certo, e questo a Ferrara, a Ferrara o a Bologna? Dove l'hai, lo... dunque, sono stato alcuni anni a Ferrara, poi a Bologna, sono nato a Bologna, poi sì, alcuni anni a Ferrara e poi tornato a Bologna, okay, fino a 24, fino a 20 anni. Okay. Dopo sono venuto a Firenze e da 70 anni sto a Firenze. Antonio, senti, purtroppo ti devo salutare, tu però ovviamente hai dei figli, hai dei nipoti, la foto che ci hai mandato sei, è il tuo pronipote, giusto? È il mio, sì, è dunque nipote di, è figlio di un mio nipote. È un figlio di un tuo nipote, figlio, esatto. Di mio nipote, figlio di mia figlia. Per cui, esatto, è il tuo pronipotino. Quanto tempo si, ha? Si chiama Pietro e ha 5 mesi adesso. Va bene. Lì nella fotografia ha 5 mesi. Ok, Antonio, ti ringrazio per la storia e per la chiacchierata. In bocca al lupo e continua così per altri almeno 90-92 anni. Non so quanti. Ad ogni modo io continuo a sentirti la mattina dopo, perché io di giorno faccio molte cose. La mattina dopo alle 5 mi metto al telefono, sì, alla radio. Radio. Sento te e poi sento Nicoletti e poi alle 6 mi alzo, perché io alle 6 voglio sempre essere alzato da tante decine d'anni e spero di poterlo fare ancora. Chi si alza presto ha lunga vita. Grazie ancora, Antonio. Ciao, ciao, a presto, ciao, grazie, grazie mille, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Una volta sono stato in curva allo stadio. Non era la tifoseria della mia squadra, però mi trovavo lì, nella fattispecie a Firenze per lavoro, e andai con un amico a vedere la partita. Era un Fiorentina-Juventus e noi eravamo in curva Fiesole. Io non sono tifoso né della Juventus né della Fiorentina, però aveva l'aria di essere una bella partita e ci siamo comprati il biglietto. Io non conoscevo nessuno dei giocatori e non sapevo nemmeno chi fossero quelli che giocavano alla Fiorentina, ma al terzo coro in cui mi trovavo io già mi sentivo un po' integrato. Al quinto ero parte assoluta di quel gruppo e dopo 20 minuti mi sembrava di essere stato tifoso viola da sempre. Quando le squadre entrarono in campo, al di là dei fischi fortissimi verso i giocatori della Juventus, mi ricordo che incominciarono dei cori ironici, ma anche diciamo molto critici, nei confronti dell'allenatore della Juventus, che all'epoca era Marcello Lippi. Prima dovetti capire bene quali fossero le parole di quei cori e poi iniziai a cantarli anche io, a squarciagola, contro il povero Lippi, ovviamente. Ora, ammetto che Lippi non è che mi stesse particolarmente simpatico, però i cori erano veramente cattivi. E sinceramente non ho memoria di quanto finì quella partita. Direi male, però, visto che appunto non mi ricordo il risultato, ma ricordo bene la sensazione che mi rimase addosso per tutta la giornata e per tutta la sera. Una sensazione di frustrazione incredibile per come era andata la partita. Ho sempre pensato a quella domenica come ad un esempio piuttosto importante dell'effetto che la forza di un gruppo unito, che va tutto nella stessa direzione, può avere su una persona. Perché io ero completamente a secco di informazioni sulla Fiorentina e sui suoi tifosi, ma bastarono 3 ore in mezzo a loro a cantare cori e urlare slogan che alla fine io mi sentivo parte di quella cosa lì. E mi sentivo anche bene. Avevo la possibilità di pensare meno a ogni cosa che facevo, perché tanto la facevano tutti, quindi non c'era il rischio di doverla giustificare. C'era un respiro comune che era più forte del mio e tutto ciò era molto confortante, era perfino piacevole. Il giorno dopo mi svegliai e mi resi conto che io non ero tifoso della Fiorentina e che Marcello Lippi non mi aveva fatto mai nulla di male nella vita. E forse questa storia non c'entra con quella di Antonio, ma invece forse un po' sì. Perché alla fine, dalla storia di Antonio, ho capito che, primo, la parola apoteosi ultimamente la sentivo solo dire ai telecronisti di calcio. Secondo, le mamme che dormono appoggiate sul tavolo non ci sono più, perché un divano o un letto sono molto più comodi. Terzo, essere fratelli minori può essere molto pericoloso. Quarto, Balilla in fondo non era un nome così guerriero per essere stato scelto da Mussolini. E soprattutto, quinto, è proprio vero che Lippi non mi ha mai fatto niente. Chissà, o se davvero vai vedere la tua squadra, o se invece tu tanto capita di avere la fortuna di parlare con persone come Antonio, che hanno non solo vissuto una lunga vita e la raccontano magnificamente e lucidamente come fa lui, si svegliano tra l'altro alle 4:30 del mattino, ma anche che hanno avuto la possibilità di incontrare dei pezzi, nel bene o nel male, dei pezzi della storia di questo paese. Insomma, non conosco tante persone che hanno visto da vicino Hitler e Mussolini, quindi appunto nel male in questo caso. 349-238-6666, si parlava di fanatismo in generale, che era quello che un pochettino guidava questo paese in quel periodo, ahimè ogni tanto anche in questo, ma si parla di fanatismo, dicevo. Pietro: sono fanatico del gioco a carte, è esattamente quello che volevamo, non posso perdere. Ogni giovedì sera nel bar del mio paese facciamo dei giorni, dei gironi di scopa, e io sono sempre fisso con un amico, sarà scopone scientifico. Una volta siamo quasi arrivati alle mani perché si era dimenticato che c'era ancora un 7 in giro, abbiamo perso la primiera. Che imbarazzo, lo scrive lui. Pietro, siamo vicini al tuo imbarazzo, lo siamo io, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Miriam Lucchetti, lo è, spero, anche Antonio. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Berenice, vivo ad Aprilia, la storia di domani è la mia e parla del giorno più brutto della mia vita. Questa è la mia storia e io sono qui.